TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Triestino investito e ucciso sull'autostrada A4 all'altezza di Novara e un autotrasportatore di 52 anni caccia all'auto pirata. Infortunio alla Fincantieri di Monfalcone, un addetto caduto da 3 metri, sciopero dopo l'intossicazione da CO2 di 4 lavoratori ieri sera. Nubifragio nella notte in comune di Latisana, numerosi allagamenti, dalle 18 allerta gialla su gran parte della regione. A 12 anni è salvato dall'annegamento il suo migliore amico, è successo a Tarcento. L'intelligenza artificiale impatterà solo in minima parte sulle aziende high-tech, che però dovranno andare a caccia di addetti. Un incontro a Trieste. Centro Balducci, al via il convegno annuale con tanti ospiti e il tema «Mai soli, un altro mondo possibile». Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Daniele Lettige. Cominciamo con la cronaca nera. Un 52enne triestino è stato travolto e ucciso la notte scorsa lungo l'autostrada A4 fra Torino e Milano, nel territorio di Novara. Secondo una ricostruzione, l'uomo era rimasto in panne con l'auto ed è sceso per cercare aiuto in un autogrill poco distante. Un mezzo che sopraggiungeva lo ha investito senza fermarsi a soccorrerlo. L'identificazione è avvenuta attraverso l'intestazione dell'auto rimasta ferma. La polizia stradale di Novara sta cercando di rintracciare il mezzo investitore attraverso l'esame delle telecamere di sorveglianza. La vittima è un autotrasportatore. Infortunio questa mattina alla Fincantieri, dove un addetto è caduto da 3 metri, non è in pericolo di vita. E ieri sera una fuga di CO2 ha provocato l'intossicazione di 4 lavoratori. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 2 ore a fine turno. Un operaio è svenuto battendo la testa a terra nel reparto salderia B, il più grande del cantiere. Due colleghi, vedendolo a terra, sono intervenuti per soccorrerlo, ma anche loro hanno respirato il gas, rimanendo intossicati. Accortosi della situazione, il supervisore di reparto è giunto in aiuto, ma pure lui non ha potuto evitare il contatto con il gas, accusando un lieve malore. I soccorsi sanitari hanno trasportato in elicottero a Cattinara l'operaio più grave, che è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica. Per gli altri due invece una diagnosi meno problematica, saranno dimessi oggi. Il CO2, anidride carbonica, viene comunemente usato nella saldatura professionale, ma si scompone durante la combustione del metallo e non è pericoloso. In questo caso invece c'è stata una perdita dalla conduttura che porta il gas alla pinza di saldatura. Fortunatamente l'ambiente era aperto e ventilato. Le attrezzature vengono comunque sottoposte a revisione periodica. Sentiamo Michele Zoff della FIM CISL. Adesso logicamente verrà effettuata una verifica di tutti i cavi CO2, di tutti gli impianti CO2, per giustificare questa perdita che c'è stata. Visto la gravità del fatto, come FIM Fiume Wilm abbiamo deciso di scioperare le ultime 2 ore per dare un segnale per questo grave fatto che è avvenuto ieri sera. Moreno Luxic della FIOM CGL. I nostri soccorsi sono stati veramente, ma veramente bravi, perché le cose sarebbero potute andare molto peggio. Per tutto quello che si fa sulla sicurezza, tutti gli investimenti che ci sono, tutte le interlocuzioni quotidiane che abbiamo, evidentemente ancora non basta. In questo periodo, in questi ultimi mesi, come tutti sanno, lo dice la cronaca, ci sono stati 3 incidenti abbastanza importanti. Questo è un trend negativo che va assolutamente bloccato. Su queste questioni va fatta una profondissima riflessione da parte di tutti. Il sindacato lo sta facendo da tempo e continuerà a farlo. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla Tisana poco prima di mezzanotte, colpendo particolarmente le località di Bevazzana e Aprilia Marittima, con il funzionamento delle idrovore che non è stato sufficiente per far defluire l'acqua. Abbiamo sentito il sindaco di Latisana, Lanfranco Sette, che ci ha fornito un quadro della situazione e degli interventi di stanotte. Nel raggio di 2 chilometri dal centro di Aprilia Marittima verso le ore 22 c'è stato un muro d'acqua, una cella temporalesca veramente con tempi di ritorno intorno ai 30 anni, infatti un episodio quasi simile ci fu 20 anni fa, ma non di questa portata, è scaricato circa 200 mm di acqua in pochissimo tempo. E ci sono due enti che gestiscono il deflusso delle acque, uno è il CAFC, il Consorzio Acquedotto Friuli Centrale per la rete fognaria, e poi c'è il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana per quanto riguarda tutto il territorio, compreso anche quello circostante agricolo irriguo. Sta di fatto che ci siamo trovati con la località con circa 40 centimetri d'acqua verso le ore 22:45, subito era già sul campo la protezione civile di Lattisana, immediatamente sono arrivati anche i vigili del fuoco di Lattisana e Lignano Sabbiadoro con 5 o 6 mezzi. Abbiamo finito verso le 4 stamattina, lì ci sono molte case che hanno i semi interrati, e si è visto subito che c'erano decine di abitazioni con anche un metro d'acqua all'interno. Noi adesso stiamo terminando il monitoraggio e anche gli interventi, diciamo, vengono censiti e stiamo cercando di fare il punto della situazione. Siamo già in contatto con i due enti, stiamo predisponendo la richiesta di stato di calamità alla regione e domani faremo il punto per condividere le informazioni. In arrivo il maltempo, come stiamo per vedere, allerta meteo di colore giallo della Protezione Civile. Ora cielo da nuvoloso coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 23,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24,5 gradi, a Gorizia, Pordenone e a Udine abbiamo 23 gradi, nell'area montana a Tolmezzo 17, a Tarvisio 16,5 decimi, a Sappada 15, a Forni di Sopra 16, sul Piancavallo 15,5, sull'Ussari 11,5, sullo Zoncolan 11 gradi, sulla costa a Grado 24, a Lignano 23, temperatura del mare 23 gradi in entrambe le località. Queste le previsioni per oggi pomeriggio, cielo da nuvoloso a coperto con rovesci e possibili temporali, le piogge in giornata saranno intermittenti, in genere moderate o abbondanti. Dal pomeriggio sera nella notte successiva le piogge potrebbero essere intense e temporalesche, localmente anche molto intense. Sulla costa, specie sul settore occidentale, vento moderato da est o sud-est. Domani tempo molto instabile con cielo da nuvoloso a coperto, nella notte fino alle ore centrali della giornata probabili rovesci e temporali con piogge intermittenti da abbondanti e intense, localmente anche molto intense, specie sul settore occidentale e in genere sulle prealpi. Sulla costa vento moderato in genere da sud-est, dal pomeriggio sera probabile attenuazione dell'instabilità. Torniamo alla visita in regione del ministro Piantedosi, che si è conclusa ieri a Trieste con la partecipazione alla firma di un protocollo d'intesa che impegna regione, prefetture e comuni a nuove forme di collaborazione per la sicurezza e servizio. 4 milioni di fondi regionali per acquisire attrezzature e strumentazioni destinate alle forze dell'ordine e altri 4 per potenziare e integrare i sistemi di videosorveglianza e le connessioni delle sale operative. È il contenuto economico del protocollo per la sicurezza urbana firmato a Trieste tra le prefetture stesse, l'Associazione dei Comuni e la Regione, ultimo atto della visita del ministro Piantedosi in Friuli Venezia Giulia. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. La Regione da parte sua mette a disposizione delle risorse sia per l'utilizzo di mezzi tecnologici per controllare il territorio, sia di strumenti da mettere a disposizione degli operatori della sicurezza per implementare la sicurezza sul territorio e quindi migliorare la sicurezza per i nostri cittadini. Nel testo firmato anche l'accordo per svolgere progetti di aggiornamento professionale per le forze dell'ordine, lo scambio di informazioni fra le polizie locali e le altre forze di polizia e la possibilità di finanziare la presenza di personale di vigilanza privata nelle zone a forte concentrazione di esercizi pubblici o sui mezzi di trasporto pubblico. Dopo la cerimonia, Piantedosi ha nuovamente stigmatizzato le violenze accadute a Trieste e altrove a margine delle manifestazioni in favore di Gaza. Contiamo più di 50 feriti tra le forze di polizia, ci sono delle persone fermate, tutto questo non vedo che cosa c'entri con la pace, con i temi della pace, con i temi di Gaza o delle posizioni di Israele come delle posizioni della Palestina. Trieste, Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. A 12 anni ha salvato dall'annegamento il suo migliore amico. È successo a Tarcento, protagonista un ragazzino che, visto l'amico sprofondare nelle acque del Torre, è riuscito a portarlo a riva e a praticargli al meglio la respirazione bocca a bocca in attesa dei soccorsi. Abbiamo raggiunto Barbara Adotti, la mamma di Ian, il ragazzino salvato. Che cosa è successo sabato? Sabato i ragazzini sono venuti qui, avevano posteggiato le biciclette in questa zona, volevano stare all'ombra, tranquilli a giocare, evidentemente poi faceva troppo caldo e hanno deciso di guadare il fiume. La corrente lo ha trascinato dentro questo buco, lui si è aggrappato ai ferri che vede, è riuscito a riemergere per un attimo. L'amico ha visto che non rispondeva, galleggiava pancia sotto, pancia in giù, è riuscito, non so come, a trascinarlo per un braccio e a portarlo a riva. L'ha girato e ha visto che aveva gli occhi aperti, le labbra blu e rantolava, quindi aveva bevuto acqua e si è subito messo a fare le manovre di primo soccorso, quindi ha schiacciato la pancia e mi ha detto che ha iniziato a vomitare acqua mio figlio, a tossire, gli ha fatto la respirazione bocca a bocca e poi mio figlio si è ripreso e alle 13:13 mi ha telefonato dicendomi mamma ho rischiato di annegare. Mi sono spaventata e per me il ragazzino veramente è un eroe. Non solo l'ha salvato ma è anche stato capace di fare le manovre, sì, di rianimare la respirazione bocca, sì, a bocca. Assolutamente sì, e questo lo hanno insegnato a scuola, lo fanno ogni anno e poi ha la mamma che è molto brava, gli ha insegnato come affrontare le prime emergenze. Tarcento, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. 12:41, i temi dell'economia e del lavoro. Presa di posizione di Confcommercio sulla prospettiva di un nuovo insediamento commerciale di grandi dimensioni a Manzano. L'iter urbanistico, dichiara in una nota il presidente del mandamento Friuli Orientale, Maurizio Temporini, è stato avviato all'insaputa delle categorie economiche locali, senza un reale confronto con chi ogni giorno rappresenta e sostiene le imprese del commercio di vicinato. È un progetto che, a nostro parere, non risponde a nessuna esigenza del territorio. Nei fatti, conclude Temporini, non è che un investimento immobiliare. L'intelligenza artificiale impatterà solo in minima parte sull'occupazione nelle aziende high-tech, che anzi dovranno continuare a investire in formazione continua e in nuove forme di gratifica per essere competitive nell'attrazione del personale qualificato. È quanto emerge dalla prima giornata del roadshow InnovUp, che oggi unisce a Trieste i poli tecnologici di gran parte del paese. Il lavoratore è al centro dell'azienda per renderlo più coinvolto, motivato e fedele, specie in un periodo dove trovare personale qualificato è sempre più difficile tanto nelle aziende private quanto ad esempio negli ospedali. Se ne è parlato nella prima giornata dell'Italian Innovation Roadshow organizzato da InnovUp, che unisce i poli tecnologici di tutto il paese. La tappa triestina è stata dedicata infatti interamente al capitale umano e a come renderlo fondamentale per essere competitivi a livello globale. Salari più alti, ma non solo. Gli under 35 cercano motivazione. Francesco Venier, economista del lavoro del MIB. Una grande fame di crescita, quindi vogliono aziende che gli stimoli, facciano crescere di competenze, e ovviamente crescono le competenze, crescono le responsabilità e poi c'è anche la carriera, ma la carriera non come obiettivo di per sé, ma come risultato di una crescita del proprio capitale intellettuale, delle proprie competenze. Crescere le competenze significa soprattutto formare anche chi è in azienda già da tempo, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie. Elena Clari, formazione continua di Formindustria. È diventato molto più facile intervenire con strumenti come per esempio gamification, come per esempio la realtà virtuale, che garantiscono un apprendimento più motivato e più consolidato. Permette un apprendimento che si memorizza e si consolida nel tempo, perché attraverso l'esperienza ovviamente è più facile poi ricordare e avere maggiore attenzione per le situazioni di rischio e di prevenzione. Sullo sfondo rimane l'intelligenza artificiale, amica o nemica dell'occupazione qualificata? Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico Alto Adriatico. L'intelligenza artificiale è oggi, non è un competitor, è un compagno. Io la adopero quotidianamente. Trovo degli aiuti straordinari. Chi non l'adopera è fuori gioco. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Vengono premiate alle 17 a Udine le imprese più efficienti dal punto di vista energetico. I riconoscimenti di APE e FVG saranno consegnati nella Torre di Santa Maria presso la sede di Confindustria. A Trieste invece viene inaugurato lo spazio Foresta in Città, realizzato in via Muratti 1 dal cluster Legno Arredo Casa FVG. L'apertura alle 17:30. Da giovedì è in programma Pantianicola, 54esima mostra regionale della mela, che coprirà due fine settimana fino al 5 ottobre. Il programma è stato illustrato questa mattina a Udine. Oltre alle degustazioni e ai concorsi per mele, succo, sidro e aceto, di rilievo l'incontro tecnico per i coltivatori in programma il 26. 7. Servirà anche a fare il punto sull'annata in corso, per la quale si stima una produzione di 65.000 tonnellate. In regione la superficie coltivata a Meleto sfiora i 1.100 ettari. Ne parliamo con Luca Benvenuto, tecnico dell'ERSA. Che stagione è stata per le mele? Cosa dicono i produttori? È stata una stagione parecchio impegnativa per i produttori, soprattutto caratterizzata da condizioni meteorologiche primaverili in cui le piogge hanno creato particolari pensieri al mondo produttivo, con interventi continui nelle strategie di difesa per i principali patogeni fungini. Queste condizioni poi sono migliorate nel corso della stagione e hanno ben influenzato poi nel pre-raccolta la colorazione dei frutti. Tuttavia hanno creato problemi soprattutto nel periodo primaverile per quanto riguarda la fase di impollinazione dei frutti, essendoci molte giornate di pioggia concomitanti proprio in questo importante periodo, che ha causato un lieve calo delle produzioni. La mela è un tipo di coltura che si adatta bene o male agli estremi climatici? Non è così semplice per questo tipo di specie vegetale riuscire ad adattarsi, perché ha differenti patogeni, sia fungini che insetti. Abbiamo visto negli ultimi anni come la Liomorpha alis ha creato particolari problemi al comparto frutticolo, e da ultimo anche Diomerella, che è un gruppo di funghi che erano presenti soprattutto nell'Europa meridionale e nel corso delle ultime stagioni si sono riscontrati anche nella nostra regione, causando gravi problemi alle coltivazioni, soprattutto gestite col metodo biologico. Per i produttori, Pantianico proporrà un prezioso convegno tecnico organizzato dall'ERSA proprio sui problemi che riguardano le mele. Si parlerà proprio di quelle che sono le ottimali strategie di diradamento da attuare in questa importante fase della gestione della coltura, e ci sarà poi spazio per fare un piccolo flash di carattere fitosanitario per andare ad analizzare eventuali problematiche che sono state riscontrate nel corso della stagione. Un nuovo caso di dengue è stato segnalato dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che lo ha accertato a Trieste. Si tratta di una persona rientrata da un viaggio all'estero. Come previsto dal piano regionale di prevenzione, nella zona del domicilio è stato effettuato un sopralluogo e si procederà alla disinfestazione. La malattia viene diffusa dalle zanzare, in particolare dalle tigre. A Trieste Asugi organizza un appuntamento per pazienti con cardiomiopatie e i loro familiari nel quadro delle attività divulgative in vista della Giornata Mondiale del Cuore. Alle 16.30 nell'aula Casali del Polo Cardiologia, l'incontro con il professor Marco Merlo e la dottoressa Miranda Coni, infermiera responsabile dell'ambulatorio scompenso e cardiomiopatie. Informare e orientare chi cura è il titolo di un ciclo di incontri formativi promosso dal comune di San Martino al Tagliamento. Sono dedicati agli assistenti familiari e a tutte le persone che si prendono cura di un proprio caro. Questa sera alle 20.30 in biblioteca comunale, il primo appuntamento, Tutto sulle mie spalle, come alleggerire il peso dell'assistenza. Si parlerà del benessere psicologico dei caregiver e di strategie per prevenire il sovraccarico. Un incontro per illustrare esempi virtuosi di mobilità urbana per migliorare la qualità della vita. Si intitola Ripensare le città, esperienze da Valencia a Udine. Vedrà dialogare l'assessore alla mobilità comunale Ivano Marchiolle e Giuseppe Grezzi, esperto di mobilità e già assessore alla mobilità di Valencia dal 2015 al 2023, alle 18 al vecchio tram in piazza Garibaldi. Ghiacciai e diritto, nuove regole per un bene comune compromesso dal riscaldamento climatico. Questo è il titolo dell'incontro organizzato dal CAI di Gorizia, in cui interverrà Roberto Louven, professore di diritto pubblico all'Università di Trieste e già presidente della regione Valle d'Aosta. Inizio alle 20 nella sala incontro San Rocco di via Veniero. Una storia ripresa in questi giorni dai principali organi di stampa nazionali mette al centro Trieste. Si tratta di un servizio di Chi l'ha visto, andato in onda nel 2021. In quell'anno morì di Covid un uomo deciso a lasciare la sua eredità a un figlio mai riconosciuto, nato appunto a Trieste nel 1958. Sono passati 4 anni da quando Chi l'ha visto, grazie al servizio di Francesca Carli e Serena Antonelli, accese i riflettori su una vicenda iniziata alla fine degli anni 50. Nel 57 sede a Londra, Malcolm, un giovane sudamericano nato nel 1936 in Guyana, conobbe una giovane triestina che lavorava come ragazza alla pari. Tra i due nacque una relazione, lei rimase incinta, ma lui non volle saperne. Così la giovane tornò a Trieste e nel novembre del 1958 diede alla luce Michele, un bellissimo bambino dalla pelle color cioccolato. Passano i decenni e nel 21 Malcolm muore di Covid in Svezia. Prima però lascia scritto che quel figlio mai riconosciuto sia suo erede. La moglie, per esaudire l'ultima volontà, si rivolge alla trasmissione di Rai 3. Quel bambino oggi sta per compiere 67 anni, eppure, nonostante gli appelli della stampa, di lui si sono perse le tracce. Gli indizi però non sono pochi. All'epoca una situazione del genere non sarà passata inosservata. La gravidanza di una ragazza triestina con un giovane sudamericano conosciuto a Londra avrebbe fatto scalpore e qualcuno in città o in famiglia deve averne memoria. Ma ancora nessuno si è fatto avanti. Il mistero resta, basterebbe anche un piccolo indizio per dare alla vedova di Malcolm la speranza di ritrovare quell'uomo. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si inaugura ufficialmente questa sera alle 20.30 a Zugliano il 33° convegno annuale del Centro Balducci, che partirà con un incontro a cui parteciperanno Umberto Ambrosoli, figlio dell'avvocato ucciso dalla mafia per ordine del bancarottiere Michele Sindona, e la teologa Linda Poker. Il titolo scelto per questa edizione è Mai soli, un altro mondo possibile. Ci spiega il perché di questa scelta Don Paolo Iannaccone, presidente del Balducci. Mai soli perché al di là della solitudine, che può essere un aspetto molto positivo, perché è proprio nella solitudine che noi riusciamo a fare le scelte più profonde della nostra vita, nel sentire il battito del cuore, nel sentire dove vogliamo andare e chi vogliamo essere nei confronti del mondo, delle persone che incontriamo, c'è un aspetto che quando la solitudine si trasforma in isolamento diventa drammatica. E l'isolamento può essere cercato, voluto, ma l'isolamento può essere anche subito, come tante persone subiscono quando non ricevono le attenzioni che dovrebbero per la loro dignità umana e per il rispetto della loro vita. Il primo appuntamento è l'incontro di stasera. Quali sono i temi che verranno affrontati e quali sono gli ospiti che parteciperanno? Ci sarà Umberto Ambrosoli, che è figlio di Giorgio, assassinato nel 1979, ma ci sarà anche una teologa, Linda Poker, docente alla Pontificia Facoltà delle Scienze dell'Educazione di Roma, perché vogliamo cominciare a esordire guardando un attimino cosa significa dare l'opportunità di non lasciare sole le persone e l'umanità, soprattutto l'umanità sofferente che fa fatica. Perché noi crediamo fermamente che un altro mondo è davvero possibile e che tutto sommato quello che diceva anche Papa Francesco solamente un anno fa a Trieste alle giornate sociali, che l'indifferenza è il vero cancro della democrazia. I libri di cui si parla oggi a Trieste, la libreria Lovata alle 18, Elvira Muicic presenta La stagione che non c'era, edito da Guanda, il destino di un intero paese attraverso le vicende di due giovani bosniaci nella Jugoslavia del 1990. A Rimanzacco, Angelo Floramo sarà all'Auditorium De Cesare con Vita nei campi, storie di terra, uomini e bestie, un viaggio poetico nella bellezza della vita agreste, alle 20.30. A Trieste, la libreria Minerva alle 17.30, Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo presenteranno il loro saggio Mohács 1526, la battaglia che mise fine alla potenza medievale ungherese, da loro pubblicato con Carocci. Siamo allo sport con il calcio. L'Udinese torna in campo allo Stadio Friuli dopo la sconfitta in campionato contro il Milan. La squadra di Rooney Aic cerca di recuperare fiducia nella gara di Coppa Italia con il Palermo di Pippo Inzaghi. In palio c'è il passaggio agli ottavi di finale contro la Juventus. La partita alle 18.30. Molte novità nella formazione friulana, con Zanoli a centrocampo e Zaniolo e Buxa nel reparto avanzato, mentre in difesa dovrebbe rientrare il giovane Matteo Palma, che aveva fatto benissimo nel precampionato. Vela è scattato a Trieste Mondiale Melges 24, da poco in corso la prima delle 12 prove in programma nella manifestazione organizzata dallo Yacht Club Adriaco. È la prima volta che il campionato, il numero 26, si svolge in Adriatico. 71 gli equipaggi al via, 16 le nazioni rappresentate. Un colossal sotto il profilo culturale e sportivo, dedicato alla storia del calcio nella Venezia Giulia dal primo Novecento al 2025, ricchissimo di immagini e filmati d'epoca. È il docufilm di Dario Roccavini e Bruno Gasperutti, realizzato per scopi di ricerca senza scopo di lucro, intitolato Storia centenaria del calcio triestino e giuliano dalla Serie A ai dilettanti. La prima parte dell'opera, dedicata al periodo tra il 1900 e il 1970, sarà proiettata questa sera alle 20.30 nella Sala Luttazzi del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Si inaugura alle 18 a Butrio il campo di baseball che è stato oggetto di un'importante opera di riqualificazione. In particolare sono stati sostituiti i 90 corpi illuminanti delle torri faro e sono stati installati i pannelli fotovoltaici per 23 kW sull'edificio del Palafeste. L'intervento, che comprende anche un sistema per il recupero delle acque meteoriche, è costato 740.000 euro. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. 12.55, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.